cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Vi avverto subito, questa è una puntata del cacciatore di libri ad alto tasso di dolcezza, perché parliamo di miele, o meglio di un libro che ha anche per protagonista il miele e un'apicultrice. Si intitola La custode del miele delle api, l'ha scritto Cristina Caboni, pubblicato da Garzanti. Cristina, tu hai avuto un grande successo con la tua opera prima nel 2014, che era Il sentiero dei profumi. Era il tuo esordio, che è stato il libro come esordio più venduto del 2014 in Italia. Adesso esci con questo nuovo libro, immagino che ci sia un po' di ansia da prestazione, no? Dici, oddio, il profumo è andato così bene, il miele come andrà? Sì, moltissima, proprio un'emozione indescrivibile, poi comunque sì, tanta ansia e tanta aspettativa. Ah, allora adesso vedremo quanti anche dei nostri ascoltatori leggeranno La custode del miele e delle api. La protagonista è, come dicevo prima, un'apicultrice itinerante, si chiama Angelica, è una donna che, tu lo dici subito, non ha il senso delle radici, non ha radici. Lei è cresciuta in Sardegna, anzi in un'isola della Sardegna, da una mamma che però non era sua mamma. Ha un po' questo senso di inquietudine dentro di sé, perché sceglie appunto di fare l'apicultrice itinerante. L'apicultrice sceglie di farlo in quanto lei fin da bambina è stata scelta dalle api. La donna che l'ha allevata le ha insegnato tutto quello che sapeva, le ha insegnato a cantare per le api, a comprenderle, a vivere seguendo la filosofia dell'alveare. Dunque, quando lei si allontana, quando diventa adulta, cerca comunque sempre di stare in questo ambiente, perciò diventa un'apicultrice e itinerante, perché Angelica all'inizio di questo romanzo è come un'ape solitaria alla ricerca del suo alveare, cioè delle sue radici, della sua casa e del luogo da cui partire per vedere il suo futuro, quella che sarà poi la sua vita. E infatti lei appunto è un'apicultrice, va da diversi apicoltori, diverse persone che hanno degli allevamenti appunto di api, degli alveari, e sì, li rimette un po' a posto, li rimette in sesto secondo le procedure che lei stessa ha appreso, un po' appunto da questa donna che l'ha cresciuta, ma molto gioca l'istinto in Angelica. Sì, gioca l'istinto e soprattutto la sua competenza, perché comunque lei è laureata in scienze zootecniche, perciò ha potuto unire la conoscenza di un mondo scientifico a quella che è invece la tradizione, perciò lei ha una visione a 360 gradi di questo allevamento, di questa cultura che ruota intorno alle api e al miele. Vi posso assicurare che sentire Cristina Caboni parlare di api e di miele, uno ci potrebbe stare anche 2 o 3 ore, perché l'ho vista in alcune presentazioni, ed essendo lei stessa apicultrice, hai proprio tu una passione, un amore per le api e per la produzione del miele. Conosci tutti i segreti, tutto il modo in cui si comportano le api. Un po' vi comprendete a vicenda? Sì, perché comunque io sono cresciuta vicino alle api ed è una di quelle compagnie che fanno poi parte di te, no? Non sai quando hai imparato certe cose perché le hai viste, le hai sentite e poi un giorno che recuperi tutta questa tua conoscenza ce l'hai lì a portata di mano. Tornando invece strettamente alla trama del tuo romanzo, c'è anche un aspetto romantico, perché è vero, Angelica è una donna, all'inizio la vediamo solitaria, sola, che va da sola per alveari, però c'è un momento in cui torna in Sardegna, dove ritrova un suo vecchio amico d'infanzia, Nicola, che lei a un certo punto definisce era il mio amico e il mio amore. Forse era troppo piccola per comprendere cosa fosse l'amore, ma cosa rappresenta per Angelica Nicola? Nicola era quello che lei aveva lasciato perché appunto non era ancora arrivato il momento e grazie all'anima e alle emozioni che lei ritrova tornando in Sardegna, nel luogo da cui lei era partita, lei incomincia a vedere tutto sotto un'ottica diversa, differente, perciò è arrivato il momento che le consente di trovare anche un amore che in realtà lei aveva già dentro il cuore, l'aveva custodito per tantissimo tempo ed era sempre quel sentimento così profondo e così appassionato che non gli aveva concesso di trovare un luogo dove mettere radici. All'inizio di questa puntata ho detto che era una puntata ad alto tasso di dolcezza, ma non sdolcinata, perché in effetti anche il rapporto fra Angelica e Nicola è un rapporto, insomma, adulto, non è fatto di smancerie, ma di profonda comprensione. Esattamente, non c'è. Quasi non si concedono nulla, perché loro comunque sono due persone che stanno cercando una dimensione, entrambi. Sono adulti, hanno fatto degli errori e vogliono che il futuro sia diverso da quello che si sono lasciati alle spalle. Inoltre cercano di comprendersi e di raggiungersi, ma non sacrificando a questo sentimento quasi nulla. Se loro ritorneranno insieme sarà perché tutto è perfetto. Tutto è perfetto, non ci devono essere, insomma, squilibri né da una parte, sì, né dall'altra. È un romanzo che inevitabilmente parla molto anche di api, di apicoltura, di miele, perché questo fa Angelica. Si capisce che tu hai una conoscenza professionale dell'argomento e anche una passione personale. All'inizio di ogni capitolo tu metti la descrizione di un miele, poi alla fine del libro c'è una sorta di diario del miele, insomma, con le varie caratteristiche, eccetera. Allora, io adesso faccio un uso molto personale di un mezzo pubblico, la radio, perché io sono ghiotta come un orsetto di miele di castagno. Allora, mi daresti un po' le caratteristiche, che cosa provoca nel mio corpo mangiare miele di castagno? Sicuramente benessere, perché quello è la caratteristica comune a tutti i mieli. E poi il miele di castagno che ha dei marcatori, lì io ho inserito l'analisi sensoriale dei mieli. Ecco, io lì ho unito quelle che sono le caratteristiche della pianta e dunque il tipo di sia di aromaterapia per quanto riguarda i profumi, fitoterapia, cioè i vantaggi che noi abbiamo con consumando il miele, che è lo specchio del territorio da dove viene raccolto. Perciò certo, perché poi sì, c'è tutto un ambiente naturale che è molto diverso. Il miele che viene fatto nel posto A è molto diverso da quello che viene fatto nel posto B, anche se sì, si tratta sempre di miele di castagno. Esatto, esatto, è proprio così. Ma il miele di castagno allora come mi fa diventare alla fine? Forte e coraggiosa. Oh, bene, allora vedi che faccio bene, sì, a mangiarlo. Certo. E invece il miele preferito da Cristina Caboni, so che è una domanda difficilissima per una che ama le api e il miele, come chiedere a uno che ama i libri, dimmi il tuo libro preferito, però c'è questo miele preferito o no? Due, il miele di rosmarino e il miele di agrumi. Sono entrambi i mieli che a me piacciono moltissimo. Uno ti dà la forza e uno ti dà il sorriso, e insomma ci sono. Qual è quello che dà il sorriso? Così? Il miele di agrumi, che poi lo stesso frutto così colorato, così profumato, ti rende quasi subito allegro. Ci sono persone che hanno la fobia delle api, no? Che appena vedono un'ape impazziscono. Invece tu, da apicultrice, che consiglio daresti quando un'ape ci si avvicina? Insomma, cosa dobbiamo fare? Adesso andiamo anche proprio sul consiglio pratico, visto che ti ho qui come esperta. Allora, bisogna ricordarsi che le api difendono e non attaccano. A quel punto è possibile che quando un'ape ci viene vicino siamo o accanto al suo fiore che lei deve visitare, oppure accanto alla colonia. Ci allontaniamo e lei riprenderà la sua strada. E poi, magari stiamo mangiando qualcosa di buono. No, perché le api comunque si nutrono di nettare. Quelle che invece attentano le nostre, ecco, merende sono le vespe. Bisogna stare, giusto, molto attenti a non confondere le vespe, che invece sono delle onnivore, sono degli insetti che comunque attaccano, molto diversi dalle api. Questo è un romanzo, abbiamo detto, dove il miele conta la dolcezza, ma conta anche l'asprezza a volte della vita e del modo in cui si devono superare le difficoltà, perché Angelica non ha una vita facile. No, non l'ha mai avuta. In maniera paradossale, questa infanzia così complicata e difficile però gli ha regalato tanto in termini di libertà, in termini di spirito e di gioia interiore, perché comunque lei è vissuta in un'isoletta piccolissima dove poteva avere tutta la libertà e vedere cose che magari gli altri bambini erano negate, perché questa grande libertà che aveva di tuffarsi in mare, di andare in giro con la sua barchetta, di giocare con gli animali così quando ne aveva voglia, moglie le ha offerto tantissimo. Lei è capace di vivere le asprezze della vita conservando una parte comunque molto, molto gioiosa, e questo la aiuta ad affrontare tutto quello che le accadrà in seguito. E allora, per tutti gli appassionati di miele, di storie intense, appunto, di vita inizialmente difficile, ma che poi, insomma, c'è anche la parentesi degli affetti e degli amori, il libro che consiglio è La custode del miele delle api di Cristina Caboni, che ringrazio, pubblicato da Garzanti. Ora facciamo una breve pausa e poi parleremo ancora di un altro libro. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Il cacciatore di libri. E ora parliamo del romanzo Senti le rane di Paolo Colagrande, pubblicato da Nottetempo. È stato uno dei 5 libri finalisti al premio Campiello del 2015. È un romanzo dalla struttura piuttosto originale. Allora, ci sono in un bar due amici, Gerasim e Sogliani, seduti allo stesso tavolo, che parlano, o meglio sparlano, di un altro amico, Zuckerman, che è seduto un poco più in là. Attraverso quindi le chiacchiere fra questi due, il lettore scopre la vita, la storia di Zuckerman, ebreo che si è convertito al cattolicesimo e diventa sacerdote, viene accolto dai parrocchiani quasi come un santo, ma un santo non è, perché infatti finisce per avere una relazione con una ragazza più giovane. Ma sentiamo appunto l'autore, Paolo Colagrande. Zuckerman è un ebreo di stirpe, convertito al cristianesimo, e che addirittura sceglie la strada del sacerdozio cristiano-cattolico. E quindi rinnegando la sua religione, ma non solo, rinnegando anche una tradizione familiare, che è stato cresciuto da due zii integralisti e che quindi vedono questa scelta del nipote come una scelta assolutamente sovversiva, e quindi perdono i contatti col nipote, che però, una volta diventato sacerdote, viene destinato a una parrocchia in una località balneare di fascia bassa. E qui succedono Una serie di cose, alcune delle quali possiamo dirle, altre insomma le lasciamo al gusto del lettore. Sicuramente possiamo dire che viene accolto in questo piccolo paese quasi come se fosse un santo, insomma tutti danno molto, molto credito a questo nuovo sacerdote, a Zuckerman, forse proprio perché è ebreo convertito, quindi come dire più convinto di altri. E però insomma si mette sempre di mezzo un po' il destino nelle cose della vita. A un certo punto lui vede questa ragazza romana, che è la figlia di una famiglia insomma molto cattolica, facoltosa, e insomma nasce qualcosa. Sì, in realtà appena arrivato nel paese, parrocchia di destinazione, lui essendo santo, avendo la stima di santo, ma acquisendo anche l'autostima di santo, quindi condividendo questa nomea che qualcuno gli ha abbottonato addosso, che lui in fondo ritiene a un certo punto di avere, ecco, vede la romana, ma la romana non è altro che all'inizio la manifestazione della grazia di Dio. Tutto il bello che lui vede intorno, parliamo di una località balneare che pur di fascia bassa è brulicante di cose, di sentimenti, di bellezza, di gente, parliamo dell'estate ovviamente. E quindi tutta questa bellezza che si muove intorno a lui è nient'altro che un riflesso della grazia di Dio. Ed è un riflesso della grazia di Dio anche la bellezza della romana, che abita lì vicino, viene mandata spesso in canonica. Per arrivare in canonica deve saltare un fosso. Allora Zuckerman dice: guarda come sono belli gli esseri umani quando saltano i fossi. Questo fino a che dura la stagione balneare, poi però a un certo punto la stagione finisce, e nelle località di fascia bassa, quando finisce la stagione, arriva il grigiore, il nero del tempo, ma le giornate si accorciano, gli umori si incrinano, i sentimenti belli si offuscano, e insieme ai sentimenti belli che si offuscano si offusca anche questa grazia di Dio che lui ha sempre visto, che ha sempre riconosciuto poi nelle cose, e che non vede più a un certo punto. E quindi vede un certo giorno dalla finestra della canonica la romana, ma non la vede più con l'occhio di prima, la vede con l'occhio del gatto che vede nel buio e riconosce le cose nel buio. E questo appunto è il punto di rottura sia della storia, che in realtà inizia qui, sia della vocazione dell'apostolato di questo santo che in fondo inciampa la prima occasione minimamente significativa. Noi come lettori apprendiamo la storia di Zuckerman attraverso appunto il dialogo fra Gerasim e Sogliani, e soprattutto Gerasim che ce lo racconta. E ci sono diverse parentesi, diverse digressioni nella narrazione, perché loro due iniziano a chiacchierare come due amici al bar e quindi parlano del più e del meno, ma fanno anche delle dissertazioni più o meno filosofiche, insomma. La storia di Zuckerman in realtà è l'occasione per loro di parlare di tutto quello che viene loro in mente. È l'occasione perché nella storia di Zuckerman ci sono episodi e ci sono elementi che suscitano una discussione che spesso diventa una lite tra i due su casi della vita, su massimi sistemi anche, massimi sistemi tenuti però diciamo a un livello abbastanza basso oppure portato enormemente in alto pur nella consapevolezza che il contesto è quello sempre di un bar o di una trattoria. A volte sono divagazioni che scivolano facilmente nella pura vanvera. A volte forse acquisiscono anche la struttura, la dignità di un ragionamento filosofico assolutamente improvvisato, ma che proprio perché è improvvisato quadra. Infatti uno degli argomenti su cui disquisiscono i due è il rapporto fra bene e male. La tesi di partenza sulla quale loro si basano è che il male dorme nascosto negli esseri umani normali o anche virtuosi e in generale in quelle persone che tenderebbero al bene, cioè tutte, secondo appunto la filosofia morale, e più queste persone tendono al bene, tanto più grande è il male che dorme dentro di loro. Cito naturalmente dal romanzo. Questa è un po' anche la tua visione della vita di Paolo Colagrandi o l'attribuisci solo ai tuoi narratori? Si parla attraverso i personaggi che si creano anche per crearsi una specie di alibi o forse una maschera. C'era, non so, Luigi Malerba diceva: scrivo per capire quello che penso. Io diciamo che condivido più o meno tutte le tesi di Gerasim e Sogliani, che dette da Gerasim e Sogliani poi acquistano uno spessore che non avrebbero se fossero dette semplicemente da me. Ecco. Leggendo queste pagine, insomma, esce fuori anche tanta ironia, a volte quasi comicità. Si ha l'impressione quasi che lo scrittore si diverta a prendere in giro i due narratori della terza storia. Sembra una storia nella storia, è un po' così? Sì, è probabile, e a farsi prendere in giro in fondo. Ecco. Sì, ma la comicità è poi dentro ciascuno di noi, siamo esseri tutti potenzialmente comici, anzi no, non potenzialmente, siamo tutti esseri fisiologicamente comici, solo che noi non vediamo la comicità in noi stessi, tendiamo a vedere le cose importanti, tendiamo a credere molto in noi stessi, a vederci più grandi di quanto non siamo, quindi a prenderci sul serio. Gerasim e Sogliani sono i personaggi che fanno il verso a chi si prende troppo sul serio, ma in realtà forse non fanno il verso, imitano, perché cercano di prendersi loro sul serio senza riuscirci. Il risultato è quello di un abbassare di statura tutto quello di cui parlano. Eppure ci sono delle riflessioni che io ho trovato molto vere, molto profonde. Sì, tu le racconti con ironia, attribuisci una certa ironia a questi personaggi, però per esempio la riflessione sulla malinconia. A un certo punto tu scrivi: e quando non c'è più la bellezza intorno a lui, che l'uomo di fede diventa vittima della tenebra malinconica e soprattutto delle lusinghe che abitano la tenebra stessa sotto forma di sintomi o barbagli di bellezza. Questo è citato a proposito del fatto appunto che Zuckerman cade in tentazione, ecco, adesso raccontandola in modo semplice. Quindi, insomma, ci sono riflessioni alla fine vere, profonde, di questi due compagni di bar quasi. Certo, ma credo di sì. Sulla malinconia sono ancora una volta d'accordo con i due improbabili e inattendibili narratori, perché la malinconia è una situazione di base per quello che credo io. È un po' la pagina bianca o la scena vuota, la tela vuota da riempire. Dove lasci gli spazi bianchi riaffiora la malinconia. Questo è un po' l'equivoco, dicono Gersim e Sogliani, che non si esprimono in questi termini però, del monaco anacoreta che si ritira nel deserto per rimanere lontano dalla tentazione. Ma ritirandosi nel deserto, il monaco trova la pagina bianca, trova la malinconia, trova il vuoto, che per un paradosso poi diventa quel vuoto corruttore che è il contenuto stesso e di un peccato, di un vizio capitale, che è l'accidia. Se invece il monaco rimanesse, questa è la tesi di Gergino Sogliani, questa è la svolta da bar, ecco, in mezzo al mondo probabilmente questa accidia, questo vuoto non ci sarebbe, quindi riuscirebbe a riempire questa pagina e quindi a non lasciare che la malinconia riaffiori. E questo era Paolo Colagrande, ora in libreria con Senti le rane, pubblicato da Nottetempo, uno dei 5 romanzi finalisti al Campiello 2015. Prima di chiudere vi ricordo che è stato assegnato il premio letterario edizione 2015 Leggi in salute Angelo Zanibelli ed è stato assegnato alla giovane Caterina Simonsen con il romanzo Respiro dopo respiro, pubblicato da PM. Forse ricorderete la storia di questa giovane ragazza, di questa Caterina Simonsen. Lei ha una malattia rara per cui non c'è cura e era finita anche sui social network, c'erano stati anche delle polemiche, insomma, perché si era battuta per la sperimentazione anche sugli animali di alcuni farmaci. Insomma, questo è il suo libro Respiro dopo respiro e ha vinto il premio letterario Leggi in salute 2015. È tutto per oggi, grazie in regia a Carmelo Lauricella. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it in podcast e se volete essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.